la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi 23 secondi, diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre, diretto in podcast che ascoltiate. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @24.it. E vi dice subito, se volete intervenire, numero di telefono lo sapete, ma ve lo ricordo, 800 24 00 24. Oggi in particolare l'appello, se volete, è a chi lavora nell'università, docenti, ricercatori e eventualmente studenti, perché ci occupiamo oggi di questa, tra virgolette, minacciata azione di sciopero che può far saltare la sessione estiva degli esami negli Atenei. Siete favorevoli? Siete contrari? Condividete le ragioni, ma ritenete che forse la forma della protesta sia sbagliata visto che ci vanno gli studenti di mezzo? Oppure pensate magari che non c'è alternativa, visto che dopo anni e anni, per farsi sentire a mai estremi rimedi? Del resto, ogni venerdì alcune grandi città italiane vengono bloccate dal serie degli scioperi nel trasporto pubblico, che ha conseguenze immani immediate sulla vita di milioni di cittadini e di imprese. Le promesse interventi per modificare la norma della legge sul diritto di sciopero del 1992 non sono mai stati trasformati in realtà. Anche 2 anni fa Del Rio, quando stava a Palazzo Chigi, l'aveva promesso, ma non sono arrivati. E al dibattito in esame oggi al Senato, voglio dire, una possibilità di intervento che però è diversa da quella del referendum ex ante per lo sciopero nei servizi pubblici. Qui non siamo nel blocco, però siamo di fronte a un'astensione che potrebbe provocare disagi fortissimi per molte migliaia di studenti italiani. Di che cosa si tratta? Si tratta di una forma di protesta che nasce in realtà da un appello per la dignità dell'università e di chi lavora nell'università, che è stato lanciato da tempo, e che è rimasto inascoltato, perché i professori universitari giudicano a ragione che la comparazione tra la retribuzione loro e quella di altri grandi paesi europei è inadeguata, ma è inadeguata soprattutto tenendo conto che, come per tutto il resto del pubblico impiego, tranne i signori magistrati, non dimenticatelo mai, tra 2011 e 2015-2016 in realtà anch'essi, come tutto il resto del PA, hanno avuto il blocco degli scatti stipendiali, che rispetto alla comparazione delle retribuzioni negli altri paesi ha reso il gap ancora più serio. E per questo dicono, ora che c'è il rinnovo contrattuale di 85 euro, che si legge che il governo concentrerà soprattutto poi per le fasce più basse, quindi ancora una volta non ai professori universitari, dicono ci dobbiamo fare sentire, perché è una rivendicazione non insensata, non di categoria, è una difesa, si chiama proprio Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, ha raccolto 5.000 firme e ha detto a questo punto non ci resta che fare questo. Nell'università italiana sono poco più di 50.000 i docenti e i ricercatori di ruolo, è un dato del 2015, e quindi 5.444 firmatari su 50.000 non sono pochi. E di adesioni intorno a questo movimento, al di là dei firmatari dell'appello, ce ne sono stati oltre 20.000, quindi stiamo parlando di un appello che è stato molto sentito da docenti e ricercatori delle università italiane. Tenete conto che questi scatti biennali che sono stati bloccati valgono diverse migliaia di euro, ovviamente, di retribuzione persa. Di qui l'apertura del confronto e del dibattito. Allora, noi abbiamo intanto un ospite che è stato uno esattamente degli iniziatori di questo movimento e di questo appello, è stato ordinario di motori termici per trazione al Politecnico di Torino, il professore Carlo Vincenzo Ferraro, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, io le chiederei di ascoltare, perché intanto noi cominciamo avendo sentito, abbiamo registrato pochi minuti fa perché si doveva imbarcare proprio adesso su un aereo, quindi pochissimi minuti fa abbiamo raccolto l'opinione di un altro docente universitario che è ordinario di letteratura italiana all'Università della Calabria ed è scrittore, tra l'altro ha scritto due bei libri, di cui uno è L'utilità dell'inutile e un altro è Classici per la vita, una piccola biblioteca ideale, il professor Nuccio Ordine, che oggi proprio su questo argomento è intervenuto sul Corriere della Sera nella pagina dell'Opinione, lo trovate a pagina, alla pagina 28, e quindi le chiederei, professor Ferraro, di ascoltare con noi questa registrazione che abbiamo appena fatto. Allora, professor Ordine, lei stamattina ha scritto sul Corriere della Sera dicendo: capisco tutto, però non mi pare il caso. Perché? Ma guardi, io vorrei specificare una cosa: lo spazio limitato che il Corriere può dare a questi interventi ha dovuto giustificare, come dire, il mio discorso un po' troppo stringato. Sì. Io non è che sia contro il fatto che ci siano delle importanti rivendicazioni salariali da fare, questa è una cosa oggettiva su cui siamo tutti d'accordo. La cosa su cui non sono d'accordo è che questa debba essere la priorità su cui la comunità dei professori universitari scenda in piazza per protestare. Io penso che noi dovremmo protestare per ben altre cose più importanti, per il fatto che ormai lavoriamo nelle università che non sono più le università nelle quali abbiamo studiato e abbiamo iniziato la nostra carriera di professore. Oggi la spinta aziendalistica sta trasformando i professori ormai in businessmen che cercano soldi, vanno a riunioni, passano giornate intere a compilare stupidi dossier inviati dai ministeri o a rispondere a delle domande insensate per compilare delle schede di programmazione. È la cosa principale per cui da sempre le università sono esistite, con due figure, un professore e uno studente. Oggi sembra che per un professore studiare e occuparsi dei propri studenti sia diventato un lusso, perché tra una riunione di consiglio di dipartimento, una riunione di corso di laurea, una riunione di corsi di dottorato, consigli di amministrazione, consigli di altra natura, dossier da compilare, tutta la nostra vita si è burocratizzata a tal punto che sembra ormai che occuparsi di studenti e fare ricerca sia diventato l'ultimo dei nostri pensieri. Da qui secondo me bisogna partire, da qui bisogna interrogarsi. Stamattina su Repubblica c'era una lettera di un giovane che dice: io non posso continuare a vivere così nella precarietà, perché non scendiamo in piazza per dire bandiamo dei concorsi per i giovani? L'università sta crescendo solo a livello verticale, cioè chi è già dentro sale i gradini all'interno delle gerarchie, ma chi è fuori rimane fuori. Noi abbiamo la classe docente e la classe di ricercatori più vecchia di tutta Europa, questo è il tema. Allora da queste basi qui la protesta è giusta, e tra queste cose io metterei la rivendicazione salariale tra le ultime voci. Le posso chiedere una battuta? Perché sì, avete protestato così poco in questi anni secondo lei? Io le dico una cosa, io penso che la classe a cui io appartengo, dei professori universitari, abbia perduto quella carica, come dire, di senso civico, di protesta civile che prima esisteva nelle università. Adesso abbiamo assorbito una serie di riforme in maniera passiva e non abbiamo mai quasi protestato, perché ormai ci si è adeguati a un modello a cui sembra che non ci sia altra via d'uscita. Ecco, io ritengo che noi dobbiamo reagire con forza a questa rassegnazione, cioè noi dobbiamo ritornare a dire: guardi, adesso c'è uno slogan nell'università che è la terza missione. Io mi sono stupito, sono stato l'altro giorno a un congresso organizzato dalla Università del Papa a Roma, dove si parlava di terza missione. Quale dovrebbe essere la terza missione? La terza missione dovrebbe essere quella che l'università si debba aprire alla società. Però quali sono le parole chiavi di questa terza missione? Sono start-up, trasferimenti tecnologici, aperture verso il mercato. Io non sento più il fatto che la prima missione che noi dovremmo avere dovrebbe essere quella di educare cittadini colti, di educare persone che frequentino l'università non per prendere un diploma, non per andare a fare un mestiere, ma soprattutto per diventare uomini e donne liberi, colti. Poi è chiaro che chi studia per amore dello studio sarà facile che troverà un lavoro con grande dignità. Questo dovrebbe essere la nostra missione principale. Invece tutto il mondo dell'università e della scuola va nella direzione contraria. Ecco, io dire la verità, ecco, fine della registrazione, e grazie comunque al professor Ordine che abbiamo beccato al volo mentre si imbarcava, ho un'opinione un po' diversa. Io sono fortissimamente a favore, ve lo dico spesso, di un'istruzione duale professionalizzante, compresa quella terziaria e post terziaria. Credo che su questo abbiamo un po' da recuperare rispetto a paesi in cui è così e in cui l'occupabilità è molto più elevata che da noi. Ma al netto di questo, avete sentito l'opinione del professor Ordine che dice: secondo me la questione salariale dovrebbe essere l'ultima, cioè l'università italiana è molto trascurata, abbiamo perso status sociale e forse anche voglia di batterci. Allora, detto al professor Ferraro, che è con noi e che anima dal 2014 questo movimento per la dignità della docenza universitaria, che, ve l'ho detto, ha raccolto in realtà il sostegno di uno su due degli oltre 50.000 docenti e ricercatori italiani, beh, fa un po' ridere perché lui si è dato molto da fare. Ecco, però mi interessa, professor Ferraro, qual è la sua reazione alle opinioni del suo collega, il professor Ordine? La prima cosa che mi viene da dire, molto spontanea, è il fatto che la dignità di un docente, nel momento in cui richiede che gli sia dato ciò che gli è dovuto, è la prima cosa a cui bisogna pensare. Nel momento in cui si rinuncia, lavorando seriamente, correttamente, con passione, con amore, dico io alcune volte, per l'istituzione, si rinuncia a rivendicare quel che si ha, e dico quel che si ha, non che vogliamo qualcosa in più, perché qui c'è un equivoco fortissimo. Si ritiene che noi chiediamo aumenti di stipendio, noi non chiediamo aumenti di stipendio di alcun tipo, noi stiamo soltanto cercando di ottenere quello che prevedeva il nostro rapporto di lavoro e che si è bruscamente interrotto nel 2011. Sono passati 5 anni dal 2011 al 2015 a stipendi bloccati, quasi come tutti gli altri, non come tutti gli altri, poi sì, è utile precisare meglio. Dopo questo periodo in cui abbiamo dato, un periodo nel quale noi, per il quale noi non rivendichiamo assolutamente nulla, non vogliamo arretrati, per carità, hanno sofferto 3 milioni di lavoratori del pubblico impiego per 4 anni, non per 5 come noi, dal 2011 al 2014. E per quel periodo noi non vogliamo assolutamente arretrati, vogliamo semplicemente che dal 1 gennaio 2015, quando tutti gli altri hanno ripreso la loro carriera normale, ordinaria, recuperando tutto quello che era giusto recuperassero, i nostri colleghi del CNR hanno avuto i riconoscimenti maturati in quegli anni. Per voi invece parte un anno dopo, perché? Per noi un trattamento di favore, ci hanno bloccato per un anno in più e nessun altro l'hanno fatto, e questo già mette dentro un seme di attacco alla dignità che è. Ma come mai è avvenuto? Bloccare solo noi e non tutti significa che noi siamo in qualche modo spesa pubblica improduttiva, che è bene tagliare almeno per un altro anno, ma c'è di peggio: il trattamento particolare e di favore si riflette su tutta la carriera, perché i 5 anni pregressi non contano nulla, nel senso che io dico sempre è come un orso che va in letargo, quando si sveglia non sa nulla di ciò che è successo nel frattempo. Noi ci siamo svegliati al 1 gennaio 2016 con un anno di ritardo rispetto agli altri e abbiamo ripreso la carriera dal momento in cui l'abbiamo lasciata 5 anni prima. Soffriremo questo aspetto. Però posso farle una domanda? Visto che c'è questa discrasia, questa asimmetria rispetto alle altre categorie del pubblico impiego, c'è anche poi chi non l'ha avuto per niente, l'ho ricordato all'inizio della trasmissione, lo stop, però rispetto alle altre, il momento della ripartenza non era pensabile risolverla con un'impugnativa? E noi abbiamo tentato anche la via giudiziaria per alcuni versi, e la giustizia, forse interpretando non del tutto bene le nostre ragioni, no? Ha detto che altre categorie di magistrati che lei citava era giusto che non avessero nessun attacco di alcun tipo perché erano molto specifici, così è stato detto, e che era giusto che noi fossimo bloccati, ma certamente leggendo bene la sentenza della Corte si dice che era giusto per quei 4 anni, non era giusto per il momento, perché ripeto, mese per mese noi continueremo a stare sempre 5 anni indietro rispetto a quella che doveva essere la nostra carriera, quindi nessun aumento di stipendio, per carità. Allora, abbiamo chiarito qual è uno dei punti fondamentali, è questa asimmetria rispetto al resto del pubblico impiego che inizia a recuperare da un anno prima di voi. La domanda diventa: ma perché arrivare alla decisione di questa sessione estiva che colpisce gli studenti? Però le ho fatto la domanda, ma adesso abbiamo un minuto di informazione stradale e poi torniamo con la risposta del professor Ferraro. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati dopo aver sentito il professor Nucciordine in apertura, critico verso la decisione di arrivare all'astensione dalla sessione estiva agli esami dei professori universitari, e con noi Carlo Vincenzo Ferraro, l'ideatore di questo manifesto per la dignità della docenza universitaria, che in questi anni ha raccolto il sostegno di metà degli oltre 50.000 tra docenti e ricercatori. Ed eravamo arrivati, chiariti ai nostri ascoltatori i motivi della protesta, è un motivo oggettivo effettivamente, perché la ripartenza dopo lo stop degli scatti del 2011 e 2015 per loro riparte però dal 2016. Perché arrivare alla decisione, professor Ferraro, dell'astensione dalla sessione estiva degli esami? Ci arriviamo semplicemente perché noi abbiamo, per così dire, esaurito tutte le cose che potevamo fare. Cosa avete fatto? Siamo partiti nel 2014, lettera 3 anni fa, lettera al Presidente del Consiglio, 10.000 firme, lettera educata, pacata, tranquilla, poche minacce, come era giusto. A inizio 2015, sciopero bianco nell'università, giugno 2015, manifestazione nei rettorati, settembre 2015, lettera al Presidente della Repubblica, pacatissimo ovviamente data la sede istituzionale, 14.000 firme, il Presidente ci ha risposto e ha mandato il tutto al Ministero per le valutazioni del caso, il Ministero non ha fatto nulla. Nel 2015-2016 a cavallo azione sulla VQR, l'unica che ha dato un modesto risultato, ma utile certamente, di sbloccare gli stipendi dal 1 gennaio del 2016. Al 16 novembre del 2016 lettera al Presidente del Consiglio Renzi, 10.000 firme, una minaccia un po' più pesante di sciopero. Il 27 novembre ulteriore lettera, 15 giorni dopo, ulteriore lettera al Presidente del Consiglio, ancora una volta 10.000 firme che dicevano categoricamente noi sciopereremo. E siamo stati ricevuti il 30 novembre, grazie a questo, dal professor Nannicini, non se n'è fatto nulla. È arrivato il nuovo governo, non l'abbiamo aggredito con uno sciopero, non era bello fare una cosa di questo genere, abbiamo detto pazienza, vediamo se il nuovo governo fa qualcosa. E il 27 di marzo di quest'anno, finalmente ricevuti al Ministero, sembravano aprirsi degli spiragli. Dopodiché il 7 giugno di quest'anno, nuovo incontro al Ministero, dopo ben 3 solleciti, però non uno, 3 solleciti diciamo, ci dite qualcosa. Siamo ricevuti, facciamo delle proposte, ci viene detto che entro 48 ore avremmo avuto una risposta del Ministero, questa risposta non si è mai vista, non si è mai sentito nulla a riguardo, qualcosa ci è stato detto di un incontro a Palazzo Chigi, ma nessun esito. Noi avevamo già detto, ormai abbiamo bloccato lo sciopero a dicembre perché c'era il nuovo governo, ma se non abbiamo risposta noi partiremo con questo sciopero. Io mi chiedo, sono ben 9 cose che ho elencato, cos'altro avremmo potuto fare? Effettivamente. Più ulteriore. A questo punto ci effettivamente è tutt'altra cosa che uno sciopero che blocca le città, magari proclamato sia pur nel rispetto della legge, ma pochissimo tempo prima. Tutt'altra cosa, ammettiamolo, cioè le cose vanno riconosciute per quello che sono. Io sono un po'. Mi fa dire bene, però. No, è solo per dire ai nostri ascoltatori, sono un po' stupito del fatto che, cioè, stiamo parlando di docenti universitari, sono un po' stupito di questo livello così basso di interlocuzione, però qualche cosa vorrei. Sì, questo anche noi, abbiamo fatto di tutto per farci sentire e abbiamo fatto di tutto per fare uno sciopero, questo lo devo dire, Perché? Perché lo sento dal cuore, per così dire, per evitare di danneggiare troppo i nostri studenti. Noi creeremo del disagio, non creeremo dei disastri. Noi stessi abbiamo detto non è uno sciopero, non si fanno più esami, non ci permetteremmo mai di pensare una cosa del genere, di fare una cosa del genere ai nostri studenti. Abbiamo detto se nel periodo di sciopero ci sono 2-3 appelli, noi sciopereremo il primo giorno, ma il secondo, il terzo lo faremo, e quindi gli appelli del primo giorno vengono soltanto slittati, gli esami del primo giorno. Anche questa è una manifestazione di apprezzabilissima e oggettiva responsabilità. Questo va riconosciuto, cari studenti, va riconosciuto. Certo, se questi sono i risultati, c'è da credere che non verrà un granché, cioè non avete niente in mano, insomma non c'è un impegno, ho capito bene? Ai rettori di fare un appello straordinario 15 giorni dopo, quindi chiunque potrà fare l'esame al più slittato nel tempo. Quindi con questo noi ci sentiamo molto tranquilli di aver messo su uno sciopero che è rispettoso del nostro diritto costituzionale di scioperare ed è rispettoso del diritto degli studenti ad avere disagi, ma non disastri, di poter comunque sostenere l'esame che è giusto che debbano sostenere. Quindi poi ci sarà la commissione di garanzia che ci dirà se tutto questo se è giusto o meno, in linea oppure si capoverà, perché, d'accordo. Il problema però è la mancanza di questo, quel tanto che basta perché il governo capisca che noi abbiamo una forte determinazione a non mollare questa battaglia. Cioè, fatto sta che insomma l'attenzione politica, l'agenda politica c'ha altro pa' capa, insomma, come si dice a Napoli. Sentiamo un altro docente, da quello che leggo, che ci chiama dalla provincia di Torino. Marco, prego. Buongiorno, salve. Buongiorno. Grazie mille dell'opportunità. Sì. Io sono un docente a contratto dell'Università di Torino, sì, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che venga richiesta una maggiore attenzione, quindi anche il riconoscimento degli stipendi arretrati e della parte di aumento degli stipendi. Però c'è tutto un mondo, che è quello della docenza a contratto, sì, che attualmente copre circa il 40% degli insegnamenti, sì, universitari. I docenti a contratto fanno praticamente la stessa attività dei docenti strutturati, quindi degli associati ordinari, però vengono stipendiati contrattualmente solo per l'ora di insegnamento. Quindi gli esami, quindi tutti gli appelli vengono svolti gratuitamente, le tesi vengono svolte gratuitamente. Dico gratuitamente anche se non è corretto, perché nel contratto ovviamente è incluso la parte di esami e la parte di tesi, ma vengono conteggiate soltanto le ore di lezione frontale. Quanto vengono pagati? Vengono pagati con un importo che va da 1 euro fino a 50 euro, ad esempio l'università per cui lavoro io, sono fortunato, si ha 50 euro. C'è anche chi ha un euro per ora di docenza frontale, un euro? Assolutamente sì, ci sono delle facoltà i cui corsi vengono dati a un euro. E, faccia conto che un corso di 40 ore pagato 50 euro significa avere 1600 euro all'anno lordi, perché viene fatturato, per appunto 40 ore di corsi, 6 appelli d'esame e le tesi e la ricezione delle istruzioni degli studenti. Ma credo che si commenta da solo, ma fa cadere via le braccia e non solo, per così dire. Grazie della testimonianza, perché questo dà l'idea a chi ci ascolta, per così dire. Corrado, dalla provincia di Monza, Brianza. Buongiorno a lei, dottore. No, Giannino e basta. Corrado, dica. Allora, Giannino, senta, volevo dire semplicemente due cose. Uno, non capisco questo sciopero, anche perché dovrebbero mettersi nei panni degli studenti. Ho una figlia. Però ha sentito il professor Ferraro la modalità, cioè appello straordinario con lo stesso dei rettori, un po' di ritardo in più, ma lo sciopero voglio dire, non impedisce l'esame. Certo, beh, disagio però, c'è, disastro no, così ha detto Ferraro. Però il discorso è, una persona impiega un tot di tempo per gli studi e a un certo punto si ritrova spostato. Chiarissimo, no, ma questo è innegabile. No? Questo è innegabile. E questa è una vergogna. E mi consenta che comunque io sono convinto che un'università, anziché statale, statalizzata come quella italiana, dove ci sono dei nepotismi, e questo è fuori discussione. No, no, fuori discussione, però possa... è anche diverso l'argomento di cui parliamo oggi. Guardi, io non deve spezzare con me una avalancia per le università private, eccetera, che ci sono peraltro nel nostro paese. Io vorrei una piena autonomia universitaria, cioè vorrei rompere l'unitarietà del ruolo di dirigente funzionario pubblico che ha il nostro professore universitario, vorrei anche quelle pubbliche con l'autonomia dei tenure che pagano in maniera autonoma, però tutto questo, ohimè, non c'è. Il problema è che qui abbiamo però chi si vede ripartire gli scatti da un anno prima e chi dopo, e sono loro, e questa... Ma che Stato è uno Stato che si muove con asimmetrie di questo tipo qua? Ecco, oltretutto, l'università la possiamo trattare sempre così? Avete sentito anche quelli a contratto? Io posso dire che Carlo Vincenzo Ferraro, secondo me, si è mosso in questi anni con gran dignità e rispetto. Questo glielo riconosco da puro osservatore. Lo ringrazio. Intanto continuate con il 24, appuntamento con Alessandro Mina domani alle 8:15. Attenti a noi due.